Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Sul tema del mercato immobiliare, quello del mattone tutti ritengono continui ad essere l'investimento privilegiato da parte delle famiglie italiane, stanno circolando delle informazioni contrastanti. L'ultimo rapporto Nomisma, che è il primo rapporto immobiliare del 2011, sono in ulteriore discesa i prezzi in questo rapporto, ma le quotazioni non si stanno abbassando in maniera sufficiente tale appunto da rilanciare le compravendite, che rimangono comunque attestate intorno alle 600.000 annuali. È un mercato che viene definito ancora stagnante da questo rapporto e quindi siamo ancora in fase recessiva. Più ottimisti invece sono altri uffici studi, quelli dei network immobiliari come Tecnocasa, che ritengono che il settore si stia invece riprendendo. Sono comunque osservatori che vengono costruiti diversamente, ma è interessante rilevare i diversi punti di vista. In tutto questo ci sono le esigenze delle famiglie che, sulla scia della riduzione delle quotazioni, stanno cercando di spuntare buoni affari, ma si confrontano con venditori che invece sono molto restii a rivedere i prezzi a ribasso con cui mettere in vendita i propri immobili. E allora noi oggi rifacciamo di nuovo un punto della situazione con i nostri ospiti di questa mattina, la collega del Sole 24 Ore Paola Dezza. Paola, ciao, bentornata. Grazie, buongiorno. Mancava a tutti da un bel po' di tempo dai nostri microfoni, quindi la risalutiamo molto volentieri. E un altro gradito ritorno è quello di Luca Dondi, analista del mercato immobiliare di Nomisma Real Estate e soprattutto curatore di questo rapporto. Dottor Dondi, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Allora, naturalmente, come sempre, so che è un tema che vi piace, vi incuriosiscono molto le quotazioni degli immobili della vostra città, del vostro centro. Vi racconteremo soprattutto i dettagli del rapporto Nomisma, che è molto articolato, molto ampio e soprattutto focalizza la sua attenzione sulle 13 principali aree metropolitane del nostro paese e su 13 città intermedie. Quindi potete chiamarci per le vostre curiosità all'800 24 00 24, scriverci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siccome oggi in borsa è una giornata piuttosto interessante, andiamo di nuovo un po' a monitorare quello che accade. Allora, c'è un ribasso per i listini del vecchio continente, differenziato è dello 0,7% a Francoforte, dello 0,5% a Parigi, molto più modesto quello di Londra, meno 0,22%, molto più marcato quello di Piazza Affari. Il FTSE MIB perde l'1,42%, oggi davvero nella bufera i titoli del settore bancario, ma non per magari fattori che interessano il settore molto frequentemente, come in tempi recenti. In genere le banche finiscono nella bufera quando ritorniamo un po' a riparlare di preoccupazioni sulle condizioni finanziarie di alcuni stati dell'Eurozona. Oggi ci sono proprio delle vicende domestiche che preoccupano gli investitori, e cioè il lancio possibile di aumenti di capitale da parte di due colossi del credito italiani. Per UbiBanca non è una indiscrezione, ma è insomma una notizia ormai confermata, pronta a lanciare ad un aumento di capitale da 1 miliardo, e il titolo stamattina, probabilmente il mercato non si aspettava questa notizia, o perlomeno non si aspettava un ammontare di queste dimensioni, e il titolo sta crollando del 10%. Segue a ruota il Banco Popolare, meno 6,83, e la Popolare di Milano, meno 6,14, che sta invece esplorando l'opzione di un aumento di capitale da 600 milioni di euro. E siccome c'è anche un po' di maretta fra gli azionisti, perché non tutti sono d'accordo, il titolo oggi scende del 6%. Queste vicende portano giù tutti gli altri titoli del settore bancario ed assicurativo. Per Fondiaria, meno 4,28, Monte dei Paschi meno 3,91, Monte dei Paschi ha divulgato i suoi dati questa mattina, gli utili sono in forte risalita, il gruppo torna anche al dividendo, ma il mercato non si convince di queste indicazioni e penalizza il titolo con un calo del 4%, e meno 3,5 punti lo segnano anche Unicredit e Intesa San Paolo. In crescita di un punto solo Telecom, Enel più 0,6, Tenaris più 0,36, più 0,2 per A2A e Snam Rete Gas, quindi un mercato stamattina molto orientato ai titoli difensivi. Euro su dollaro a 1,41,03, e direi che questi al momento sono i principali temi della seduta. Noi però oggi parliamo di mattone. È ancora presto per parlare di ripresa del mattone. Gli ultimi segnali provenienti dal settore nei mesi scorsi sembrano preannunciare tutt'altro. Le case registrano infatti un calo nelle vendite e i prezzi risultano in diminuzione. Insomma, c'è il rischio reale di una stagnazione. Questa perlomeno è la fotografia scattata al settore dall'ultimo rapporto dell'osservatorio Nomisma, il primo del 2011. Ed è proprio il calo delle compravendite a destare maggiore preoccupazione. Nel secondo semestre del 2010 è stato pari al 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2009, con punte negative del 5,5% nei centri urbani minori e del meno 10% al sud. Un dato quest'ultimo che, seppure parzialmente compensato da una certa tenuta dei mercati urbani del centro-nord, porta il saldo annuale ad appena un più 0,4% rispetto al 2009. In questo contesto, tuttavia, i prezzi calano in maniera molto contenuta. Nel secondo semestre 2010, nelle 13 grandi aree urbane prese in esame, il costo delle abitazioni è sceso dell'1,6%. Accanto a tutto questo, un fattore non indifferente è la restrizione del credito da parte delle banche, che faticano sempre più a concedere finanziamenti alle famiglie che vogliono acquistare un'abitazione. Le prospettive, dunque, sembrano allontanare, per ora, una ripresa decisa del settore. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, oppure chiamate, oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Paola Dezza, Il Sole 24 Ore, ha firmato insieme alla collega Evelina Marcosini appunto la prima pagina di Casa e Case, che è l'inserto del settore immobiliare delle Sole 24 Ore. Mi incuriosiva molto, Paola, questo aspetto. Tu sicuramente, proprio per il tipo di settore di cui ti occupi, vedi rapporti degli uffici studi in continuazione, no? E appunto mi stupiva particolarmente questa enorme differenza fra quanto decreta Nomisma e per esempio anche Tecnocasa. C'è un certo pessimismo per quello che riguarda appunto il rapporto Nomisma, Tecnocasa un po' più ottimista. Tu che sensazione hai rispetto a come sta andando il mercato, visto che ne guardi davvero tanti? Ma diciamo che nell'ultimo mese sono usciti diversi rapporti, perché sono usciti anche il rapporto FIAIP, Scenario Immobiliare, ha dato indicazioni e previsioni, perché con la fine dell'anno si fa un riassunto di quello che è successo nel 2010, cosa si prevede per il 2011. C'è chi ha, diciamo, previsioni più ottimistiche e chi invece è più, diciamo, prudente sotto questo profilo. Tutti concordano comunque nel dire che la mini ripresa che si vedeva nei primi mesi del 2010 in realtà si è affievolita sul finire dell'anno, e quindi non si può più parlare di ripresa del settore. Anzi, le compravendite, come la stessa Agenzia del Territorio ha poi detto nelle sue pubblicazioni, negli ultimi due trimestri sono andate calando, quindi un primo segnale che non si concludono vendite in questo settore significa che c'è qualcosa che non fa incontrare domanda e offerta, tutto sommato, ed è proprio la rilevazione della FIAI, forse la più prudente tra le associazioni e nel proprio osservatorio, a indicare un gap, diciamo, del 20% tra prezzo richiesto dai proprietari che vogliono vendere e invece quanto sarebbero disposti a pagare i compratori. Diciamo che questo anche da Nomisma emerge sia il principale ostacolo ancora ad una ripresa decisa delle compravendite. Esatto, quindi. Ed è quello che si rileva anche proprio sul mercato, banalmente sentendo chi cerca casa sostanzialmente. Ne sai qualcosa personalmente per caso? Allora, quindi insomma una situazione piuttosto eterogenea, almeno secondo quello che dicono i rapporti, però con un fattore comune: la domanda e l'offerta non si incontrano, perché ancora i venditori sono decisi a monetizzare, esatto. Sono rimasti fermi alle quotazioni del 2002-2003, Paola. Insomma. Esatto, sostanzialmente al picco di mercato, quindi non fanno i conti con quello che è il mercato di oggi, che non è più il mercato del 2007. E per questo il rapporto Nomisma, poi Paola ti lascio concludere, mi piaceva subito analizzare con Luca Dondi questa definizione dell'Italia, che il rapporto Nomisma, il primo rapporto Nomisma di quest'anno dà, la definizione di un'Italia sospesa. Luca Dondi, perché? Sospesa in che modo? Ma riprendo le considerazioni che avete svolto in apertura, la situazione è tutt'altro che positiva. Eravamo forse stati tutti eccessivamente ottimisti nel commentare i dati della prima parte del 2010, i dati della seconda parte ci hanno riportato a una realtà diversa. Sospesa perché appunto non c'è un incontro tra domanda e offerta che faccia ripartire il mercato, sia in termini di compravendite prima che in termini di prezzo poi. Questo non avviene perché i prezzi non sono stati efficienti nell'adeguarsi alle mutate condizioni. poi casomai entreremo sui motivi di questa inefficienza. Fatto sta che la ripresa dal punto di vista dei volumi, che era già attesa per il 2010, che si sarebbe dovuta irrobustire nel 2011, non c'è stata, e le prospettive per l'anno in corso sono di ulteriore stabilità e non certo di risalita, per cui il quadro che si desume, considerando i diversi indicatori, dai tempi di vendita ai divari, alla disponibilità delle banche a concedere credito e che tipo di credito, o meglio a quali settori concedere credito, restituiscono l'immagine di un settore ancora appunto sospeso, in difficoltà e non certo in fase di risalita. C'è appunto, proprio come focus anche da fare, adesso lo faremo nella seconda parte della nostra trasmissione, questo focus, dicevo, sull'incertezza dei valori di mercato, tale per cui addirittura Nomisma ha elaborato un nuovo indice proprio per misurare anche la capacità, la capacità sì, di poter mettere sul mercato un immobile e rivenderlo in tempi rapidi, il cosiddetto indice di illiquidità, che è molto interessante. Poi ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Paola, forse ti avevo interrotto quando ci facevi un po' la tua analisi generale sull'andamento del mercato. Magari riassumiamo semplicemente tre grandi linee di tendenza del mercato. Cioè, finita questa mini ripresa, quello che resiste è sostanzialmente la qualità, quindi appartamenti di buona qualità a piani alti con spazi esterni, chiaramente con l'ascensore, il secondo bagno. Questa è la tendenza per la prima casa. La situazione molto critica invece del segmento della seconda casa, quindi casa al mare e in montagna, in questo caso le compravendite sono scese in maniera consistente, e poi la ripresa della domanda per investimento, quindi appartamenti di piccolo taglio che vengono acquistati per i figli, per metterli in affitto, e la tendenza nel 2011 è, diciamo, quella di appartamenti anche nelle capitali europee che siano sostanzialmente super accessoriati, quindi piccoli ma molto confortevoli. Insomma, quindi magari qualche buona notizia la troviamo anche in questa situazione appunto molto differenziata, come dicevamo. Allora, noi abbiamo già la prima pausa, quindi possiamo già fermarci. Vi ricordo però, vedo che ne state già prenotando tante, che potete prenotare appunto i vostri interventi in diretta all'800240024, quindi molto volentieri cominceremo a sentirvi tra un po', subito dopo il meteo, un po' di pubblicità e un minutino di pazienza, tra poco. Io, Paola Dezza, ormai lo saprà tutta la popolazione mondiale, siamo amiche, quando viene in trasmissione raramente a microfoni spenti chiacchieriamo troppo a lungo e non riusciamo neanche a sentire quando riparte la trasmissione. Filippo la che si arrabbia, vabbè, una volta che abbiamo raccontate anche queste sciocchezze folcloristiche di Salvadanaio, andiamo avanti invece con l'analisi del mercato immobiliare italiano, un tema che frequentemente tocchiamo nella nostra trasmissione, soprattutto in concomitanza con l'uscita dei principali rapporti sull'andamento del settore. E l'ultimo, quello forse più, adesso non ovviamente per analizzare gli altri, il più completo, il più autorevole, sicuramente quello di Nomisma, e lo ha presentato appunto il primo rapporto di quest'anno proprio venerdì scorso. Le cose che escono sono molte. Luca Dondi, magari possiamo ricordare anche ai nostri ascoltatori quali sono le città che monitorate, un rapporto diviso appunto per due grandi ambiti territoriali, città metropolitane, dicevamo, e città intermedie, e spieghiamo ai nostri ascoltatori allora come viene fatto il monitoraggio da parte di Nomisma. Sì, innanzitutto grazie per le belle parole. Il monitoraggio è su 26 aree urbane, sono le 13 maggiori aree del paese che vengono monitorate due volte l'anno e 13 aree che definiamo intermedie, per dare un'idea: Ancona, Bergamo, Brescia, Livorno, Messina, città di queste dimensioni che vengono invece monitorate una volta all'anno. I nostri interlocutori sono gli agenti immobiliari che ci restituiscono delle informazioni circa l'andamento qualitativo, oltre ad una serie di variabili quantitative che sono i prezzi, i canoni, il tempo medio di vendita, di locazione, lo sconto, quindi una serie di informazioni che incrociate ci consentono di dare un quadro complessivo, congiunturale, dell'andamento del mercato immobiliare e dati puntuali per quanto riguarda gli aspetti di valutazione. Allora, Nomisma, lo riassumo di nuovo, un anno fa aveva presentato un rapporto che in qualche maniera, pur spiegando che la situazione era difficile, aveva però intravisto qualche barlume di ripresa, e invece oggi Nomisma ammette: un anno fa forse avevamo peccato di ottimismo, il mercato sembra orientato diversamente per tanti problemi, prezzi ancora rigidi, i venditori che non vogliono abbassare le quotazioni, lunghi tempi di ricerca quindi per i possibili acquirenti, il mercato bancario che naturalmente non è molto generoso, ancora non è tornato a quei livelli di generosità di qualche anno fa per l'erogazione del credito, dei mutui e tanti altri aspetti. Ce n'è un altro che se n'è aggiunto a movimentare un settore già interessante, forse non tanto in Italia quanto sul mercato internazionale. Mi raccontava a microfoni spenti Paola Dezza che anche la crisi libica, la crisi del Nord Africa, ha riportato un po' di interesse sul mattone, ma forse non esattamente in Italia, Paola. Sì, esatto, il mattone è sempre stato considerato un bene rifugio e in alcune piazze internazionali il mercato, il segmento del lusso, che sta andando comunque bene, parliamo per esempio di Londra piuttosto che St. Moritz come località magari di vacanza, c'è stato un aumento delle domande, un aumento delle richieste di informazione per appartamenti di altissimo livello, segno che il mattone rimane comunque un bene rifugio a portata di grandi capitali, diciamo. Quanto costa un metro quadro a St. Moritz? 44.000 euro è la punta massima. Proprio scontatissimo. Benissimo, oltre mezzo metro quadro praticamente ci possiamo permettere. Luca Dondi, torno a lei, perché preannunciavamo prima l'istituzione, l'elaborazione da parte vostra di questo nuovo indice che permette appunto di effettuare in qualche maniera, o comunque permette di aiutare nell'effettuazione di una valutazione dell'immobile verso il quale si punta, no? Perché? Perché il tema è che mentre qualche anno fa tutti quanti compravano, quindi il mercato andava tutto verso una certa direzione, adesso invece i possibili acquirenti magari non si fidano più del prezzo che viene proposto per la casa per la quale sono interessati, perché magari credono che, visto che è andato un po' tutti in crisi, potrebbero spuntare qualcosa di meglio. Allora, questo indice di illiquidità, intanto come può essere utilizzato questo parametro che avete elaborato da parte magari di un piccolo acquirente di un'abitazione, e soprattutto che cosa vuole raccontare relativamente ai valori di mercato, relativamente ai prezzi degli immobili, Dondi? È un'informazione in più rispetto alle classiche informazioni di prezzo, che consente di capire in maniera abbastanza immediata in quanto tempo si riesce a trasformare l'immobile in moneta, quindi quanto è liquido l'immobile, che può essere l'abitazione piuttosto che l'immobile per un'attività commerciale, riesce a essere trasformato in contante. E questo è un indicatore che cerca di avvicinare la gestione del patrimonio immobiliare tradizionale, il liquido, alla gestione di altri asset decisamente più liquidi, quindi è soprattutto uno strumento rivolto ad operatori finanziari, che però può trovare anche l'utilizzo del piccolo investitore un'opportunità di valorizzazione. Perché lo avete chiamato illiquido e non liquido? Cioè, perché non indice di liquidità invece di illiquidità? Ma lo si può chiamare in entrambi i modi, è semplicemente legata alla fase congiunturale. In questo momento siamo più in una situazione di illiquidità che non di liquidità, ed è dettata dai tempi di vendita che sono piuttosto lunghi, mediamente superiori ai 5 mesi e mezzo, e da sconti che sono appunto nell'ordine del 12-15%, in alcuni casi, come ricordava FIAIP, anche del 20%. Quindi la fase attuale ci induce più al pessimismo e a una considerazione dell'indice dalla parte dell'illiquidità che non della liquidità del mercato. Ecco, tra l'altro, sulle Sole 24 Ore, sull'indice di illiquidità, ha scritto proprio la nostra Paola Dezza. Quali sono le città più liquide, Paola? Allora, Milano, diciamo, è la città nella quale è più facile vendere casa, quindi l'asset immobile si trasforma in breve tempo in moneta sonante, diciamo. Questo per quanto riguarda sia le case nuove che le case usate. Palermo, al contrario, è quella in cui risulta più difficile, probabilmente per la tipologia del mercato stesso. Milano è una delle città forse più ricercate, per molti si trasferiscono qui per lavoro, quindi è più facile mettere un immobile sul mercato. Anche se poi, leggendo appunto sia quanto racconta Novisma sia l'articolo di Paola, Luca Dondi, torno da lei, ho capito anche che, anche se per esempio in una città un alto tasso di liquidità, non è detto che tra mercato del nuovo e mercato dell'usato appunto il livello sia il medesimo. La variabilità che c'è sul nuovo è maggiore rispetto alla variabilità che c'è sull'usato o su altri segmenti come gli uffici, ma il dato medio per quanto riguarda le 13 aree maggiori del paese su cui abbiamo concentrato l'attenzione è migliore per quanto riguarda le abitazioni nuove rispetto agli altri segmenti. Quindi un discorso è la variabilità tra mercati, che in corrispondenza delle abitazioni nuove è sicuramente maggiore, un discorso è il dato di liquidità media, che è sicuramente migliore in corrispondenza delle abitazioni nuove o completamente ristrutturate rispetto ad abitazioni usate da ristrutturare o ad altre tipologie immobiliari. Io ricordo il numero verde per intervenire in diretta, che è l'800240024. Adesso io non credo che lo sentiremo, ma Paola, c'è un ascoltatore che dice: come fate a dire certe stupidate a St. Moritz, 44.000 euro per metro quadrato? Sono le punte massime. Infatti, cioè, adesso ma proprio sarà un immobile di pregio, quindi arredato in maniera eccezionale, con delle finiture eccellenti, quindi è chiaro, Attilio. Poi noi raccontiamo sempre gli estremi per essere, come dire, anche un po' più interessanti all'ascolto. Poi naturalmente è chiaro che ci saranno, spero, delle quotazioni un po' più ragionevoli. Allora, che cosa altro possiamo raccontare? Mi interessa molto questo aspetto della rigidità dei venditori a non abbassare i prezzi, perché ormai è una tendenza che sentiamo da tanti anni. Una settimana scorsa, peraltro, abbiamo fatto una puntata di Salvadanaio sul tema degli agenti immobiliari, e anche loro mi raccontavano la stessa cosa: fanno molta fatica a trattare, Paola, con i venditori che concedono loro il mandato di vendita dei propri immobili, ma sul tema del prezzo proprio fanno una gran fatica a ragionare. Sì, perché sono rimasti, diciamo, quelli che sono i picchi del mercato, appunto, del 2007, quindi la fase pre-crisi. Bisogna fare una grande distinzione però tra venditore che non ha bisogno di vendere, quindi può permettersi di aspettare, e chi invece deve un po' scendere a patti con il mercato. In qualche caso anche gli agenti illudono a volte i proprietari di poter monetizzare meglio del previsto. Partiamo un po' dall'alto, poi a negoziare si fa sempre in tempo. Esatto. E quindi insomma una bella storia anche questa. Allora, Luca Dondi, andiamo un po' a queste città, mi dice le tendenze più macroscopiche, mi racconta anche qualche prezzo insomma al metro quadro, quali sono le quotazioni più interessanti, dove ci sono stati i trend più evidenti, mi veniva da dire a rialzo, ma non tanto, a ribasso, insomma, dove le quotazioni stanno cominciando ad essere realmente convenienti. Allora, una considerazione che vale per tutti i mercati, sia per quelli maggiori che per quelli minori, è l'omogeneità di andamento. Questa è la differenza sostanziale rispetto al ciclo sia espansivo che recessivo precedente. Mentre negli anni 90 abbiamo avuto dinamiche molto diverse tra città e città, e all'interno della stessa città, anche tra zona e zona, in questa fase l'andamento è piuttosto simile tra le varie aree del paese. A livello di valori complessivi e valori di punta, noi ci siamo concentrati su realtà intermedie, le punte le tocchiamo al nord a Verona e per quanto riguarda il sud a Salerno. Ribadisco che si tratta esclusivamente delle aree intermedie, ovviamente i valori di Milano, di Roma sono decisamente, di Venezia sono decisamente superiori a questi, però all'interno delle 13 aree intermedie le punte, che sono nell'ordine di 6-7 mila euro al metro quadrato come punta massima, sono appunto a Salerno e a Verona. Per quanto riguarda invece la dinamica congiunturale dell'anno, i cali più consistenti li abbiamo registrati a Brescia e in misura minore a Bergamo, sono realtà che hanno risentito di uno sgonfiamento superiore rispetto alla media. Quello che mi preme sottolineare è che comunque siamo su livelli piuttosto contenuti, a Brescia dove probabilmente la flessione rispetto ai dati di fine 2009 inizio 2010 è stata maggiore, siamo comunque nell'ordine del 3-3,5%, quindi dati assolutamente non paragonabili rispetto ai valori che avevamo registrato nella fase espansiva, quando i tassi di crescita annui erano nell'ordine dell'8-10-12%, quindi l'entità dello sgonfiamento è oggettivamente molto contenuta se pensiamo che nella fase espansiva il mercato è cresciuto nell'80-90, anche 100% in alcune realtà. Nella fase recessiva al massimo lo sgonfiamento è stato nell'ordine del 15-20%, quindi ci rendiamo conto di come ci si sia riportati su livelli più contenuti, ma in misura molto limitata rispetto a quella che era stata l'entità della fase espansiva. Intanto racconto a Paola che stiamo veramente creando il caso St. Moritz, perché c'è invece un ascoltatore, certo che la puoi dire la cosa su St. Moritz, mi stava mettendo un appunto, no, perché c'è un ascoltatore che ci scrive che ha dei locali e conferma che hanno quei valori. No, volevo solo dire che sabato 2 aprile esce una pagina intera su St. Moritz nelle pagine di Case Case, quindi che analizza tutto il mercato dalle punte minime alle punte massime. Difficilmente si scende sotto i 15.000 euro al metro quadro, ma se l'ascoltatore di prima ha notizie di qualche abitazione a 3.000 euro ce lo dica, perché ci precipitiamo. Che ne approfittiamo immediatamente a farci la nostra seconda casetta. Allora io intanto, sì, prima che finisco di pagare la prima, qua ce ne aveva ancora, sai quanti anni devono passare. Allora, 800240024, il numero verde per le vostre domande. C'è un altro aspetto, Luca Dondi, prima di andare in pausa volevo chiedergli anche questo, perché noi continuiamo a dire che questo mercato è un po' rigido in questo momento per l'insensibilità delle quotazioni, voi la chiamate così, per la banca che eroga credito meno facilmente rispetto a qualche anno fa, e tanti aspetti. C'è anche un mercato del lavoro che rende difficile per molte famiglie naturalmente avventurarsi in un investimento di questo tipo. Magari le giovani coppie che vorrebbero mettere su casa e comprare anche casa non riescono a farlo adesso perché l'incertezza nel mercato del lavoro è ancora molto alta. Molti ascoltatori lamentano proprio questo aspetto. Lo avete analizzato nel rapporto Nomisma? Sì, fa parte del quadro macro di riferimento. Siamo in una fase in cui la crescita è più contenuta rispetto a quelle che erano le aspettative, la dinamica dei redditi è una dinamica stagnante, se non addirittura in flessione negli ultimi anni, questo determina una difficoltà di accesso. Dobbiamo considerare che i valori del 2007-2008 erano possibili grazie a un robusto contributo che il credito e in particolare il sistema bancario garantivano al settore. Venuto meno quel contributo, ridottosi significativamente quel contributo e rimaste le quotazioni sui livelli di allora, è chiaro che le capacità reddituali delle famiglie non sono in grado di far fronte ai prezzi immobiliari, per cui si è determinato questo disallineamento, per cui si ritorna a un mercato efficiente nel momento in cui o c'è un livellamento verso il basso dei valori o c'è un ripristino di condizioni di credito analoghe a quelle del 2007-2008. Non credo che nel breve ci possa essere né l'una né l'altra cosa, ed è il motivo per cui ci induce a un non particolare ottimismo per quanto riguarda quantomeno quest'anno. Suggerimenti per chi è in viaggio? Allora, noi abbiamo analizzato fino ad ora il tema dell'andamento del mercato immobiliare secondo quello che è il bilancio definitivo del 2010, siccome anche sta andando, insomma, questo primo trimestre di quest'anno, ma naturalmente ci interessa anche capire cosa potrà succedere nei prossimi mesi. Non è particolarmente ottimista, come ci diceva poco fa Luca Dondi, Nomisma, Paola Dezza, abbiamo anche altri osservatori in prospettiva, insomma, qual è la sensazione che si ha? Sì, diciamo che appunto la ripresa non c'è, quindi il 2011 sarà un anno di stabilità. C'è chi è più positivo, per esempio Scenari Immobiliari sul fronte delle compravendite prevede 670.000 compravendite a fine 2011, quindi decisamente in crescita rispetto alle 630.000 di fine 2010, e i prezzi sostanzialmente stabili e in flessione a Genova, Napoli, Torino e Bari sostanzialmente. Ecco, Dondi, andiamo invece al vostro rapporto e le previsioni per fino al 2012 in sostanza. Data questa marcia indietro che avete fatto rispetto all'ottimismo di un anno fa, adesso procederete con un po' più di cautela anche nell'esprimere delle indicazioni per i prossimi mesi? Sì, abbiamo fatto ammenda, ancora non una retromarcia piena. No, proveremo sempre a dare qualche indicazione prospettica, soprattutto sui prezzi, e l'abbiamo fatto anche questa volta, sia per quanto riguarda l'anno in corso che per quanto riguarda il 2012. Dovrebbe esserci un lieve miglioramento del 2012 rispetto al 2011, però su valori comunque piuttosto contenuti e non distanti dai valori attuali, quindi dovrebbero essere prezzi in crescita nell'ordine dell'1%, 2% massimo nel 2012. Da un punto di vista nominale questo porta a una stabilità reale, quindi un mercato che dal punto di vista dei prezzi non dovrebbe rianimarsi in fretta. I primi segnali dovrebbero appunto aversi dal punto di vista del numero di contratti, che se non nel 2011 quantomeno nel 2012 dovrebbero tornare su livelli superiori rispetto alle 610.000 compravendite attuali. Allora, oltre al caso St. Moritz si è creato anche un caso relativamente alla utilità, alla validità di questo indice di illiquidità che Nomisma ha elaborato e che decreta Napoli come la seconda peggiore città in Italia proprio per liquidità delle case, nel senso che si fa più difficoltà rispetto a tante altre città a metterle sul mercato e rivenderle appunto facilmente. Però su questo punto si è piccato un po' un agente immobiliare di Napoli che è Giovanni, un amico di Salvadanaio. Spero che non si sia particolarmente arrabbiato. Giovanni, buongiorno. No, buongiorno a voi. Assolutamente, non è un discorso di rabbia, è un discorso di realtà più che altro, è un qualcosa di oggettivo, in quanto noi lavoriamo su Napoli, abbiamo numerosi immobili, insomma circa 90 immobili in carico, e ci rendiamo conto che invece dalle statistiche c'è stato un abbassamento dei prezzi circa del 28% e un abbassamento delle contrattazioni circa del 60% rispetto al 2007. Quindi abbiamo veramente, noi facciamo, fortunatamente abbiamo molti immobili, ma facciamo veramente difficoltà a vendere, anche se diciamo la percentuale di vendita è sempre insomma sufficiente per sopravvivere. Certo, ma allora avevamo ragione in quello che dicevamo, è una città poco liquida, si fa fatica appunto a mettere con facilità. Certo, assolutamente sì, una città poco liquida, ma soprattutto una città dove si risente la difficoltà proprio a spendere soldi che vadano oltre le cifre, insomma, oltre i 200.000 euro, veramente diventa difficilissimo vendere un immobile, certo. È proprio difficile. Qual è l'aspetto più difficile del suo lavoro, Giovanni, in questa fase? Convincere, come stiamo dicendo, il venditore a come dire, ridimensionare le sue esigenze di prezzo, le sue richieste? Guardi, la difficoltà oggettiva che incontro ogni giorno è il confronto tra quello che è il valore di mercato, insomma, diciamo, dato dai vari osservatori, e quello che è il valore che va a configurarsi nella realtà, perché lei deve considerare che ci sono vendite fatte a 10 e per un valore di 10, sono vendite fatte a 10 e vendite fatte a 6. Quindi diciamo che c'è un impazzimento del mercato, se qualcuno magari che ha proprio bisogno di vendere non ha proprio la possibilità di aspettare. L'abbiamo perso comunque. Sì. No, abbiamo un po' di difficoltà col suo collegamento, Giovanni, però abbiamo capito perfettamente lo spirito delle sue considerazioni e quindi, insomma, il tema è proprio la corretta valutazione dei prezzi, un aspetto sempre più complicato. Peraltro, Luca Dondi, le chiedo un aiuto da consulente. C'è un ascoltatore, Vito, che ci scrive all'indirizzo di Salvadanaio. Come si valutano i valori degli immobili riportati sul sito dell'Agenzia del Territorio con i valori reali di mercato, immagino? In poche parole chiede, i dati dell'Agenzia del Territorio sono confrontabili con quelli reali, quindi con quelli di mercato, perché da quello che immagino risulta l'ascoltatore, lo ipotizzavamo con Paola Dezza poco fa, evidentemente le quotazioni statistiche dell'Agenzia del Territorio sono molto diverse da quelle di mercato, molto più basse, mi pare. L'attendibilità dell'agenzia è migliorata notevolmente, quindi la confrontabilità di quei dati con i dati di mercato è sicuramente migliore rispetto a quanto non lo fosse solo qualche anno fa. La verosimiglianza maggiore la si ha in corrispondenza delle aree urbane, delle città di maggiori dimensioni, probabilmente nei comuni minori c'è ancora una sorta di gap da colmare, però è indubbio che quel tipo di patrimonio informativo si stia avvicinando, non sta a me dire se lentamente o rapidamente, verso valori di mercato, per cui sta diventando un supporto decisionale. Ecco, ma è vero che gli standard di prezzo riportati dall'Agenzia del Territorio si riferiscono a transazioni già fatte, a compravendite già concluse? Sì, sempre di più si riferiscono a effettive transazioni, quindi a valori di mercato, e sempre meno a valori di sentiment riportati da mediatori o comunque da agenti immobiliari, quindi sono dati oggettivi di mercato e non risentono di sottodimensionamenti di natura fiscale, per cui quello che era il problema qualche anno fa dei dati di fonte pubblica adesso non lo è più o non dovrebbe esserlo più, per cui l'attendibilità del valore è sicuramente superiore. Una cosa su cui io non mi trovo quasi mai d'accordo con l'agenzia è semplicemente l'evoluzione congiunturale del mercato, proprio perché loro sono all'interno di una fase di correzione dei valori di riferimento, stanno adeguando, e questo adeguamento non consente di ricavare dall'analisi congiunturale dei prezzi un'evoluzione rappresentativa di quello che è stato il mercato nel semestre o nell'anno, però a livello di valori assoluti sempre di più i valori dell'agenzia sono un riferimento coerente. Andiamo a Marcello da Roma per concludere con le telefonate degli ascoltatori, gli chiedo di essere telegrafico. Marcello, che succede nella capitale? Brevissimo, sto vendendo un appartamento di taglio piccolo in periferia a Roma, al limite della sua fascia di prezzo, grazie al fatto che ho fatto dei lavori di ristrutturazione. Siccome posso permettermi di aspettare e ho paura che stia arrivando una bella inflazione con tutto il denaro che hanno messo in circolazione negli ultimi anni, che dite, mi conviene aspettare o scendere un po' e chiudere? Marcello, magari le va anche bene, trova un acquirente assolutamente innamorato del suo appartamento e glielo prende seduta stante, tante volte anche la componente fortuna non è indifferente. Paola, che ci dici di Roma? Dipende, nel senso, Roma è una città in cui i prezzi sostanzialmente come Milano stanno tenendo, dipende appunto se trova l'acquirente che è disposto a spendere la cifra che l'ascoltore richiede, è giusto vendere. Quindi è non abbassare intenzione. La guardia, continuare a monitorare il mercato dei possibili acquirenti, naturalmente se poi vede che questa casa sta lì per 10 anni, magari qualche ripensamento forse lo deve fare anche in termini di quotazione. Allora, è sempre attivo il nuovo servizio di segreteria telefonica di Salvadanaio in collaborazione con Assogestioni e il Salone del Risparmio, che si svolgerà a Milano Milano la prossima settimana dal 6 aprile, potete chiamare il numero 828 1212, rivolgere le vostre domande in tema di risparmio gestito, i vostri dubbi sulla materia. Ripeto il numero 800 28 12 12. Grazie all'ausilio dei nostri esperti abbiamo iniziato da qualche settimana a rispondere alle vostre domande, ai vostri requisiti, e sentiamo qual è la domanda di oggi. Radio 24 e Assogestioni presentano Le domande del risparmio. Buongiorno, ho individuato un fondo grazie all'aiuto di un amico che lavora nel settore su cui mi piacerebbe investire. Potreste per cortesia indicarmi le modalità che ho per sottoscriverlo? Una volta individuato il fondo adatto alle proprie esigenze e deciso di investire parte dei propri risparmi, occorre sottoscriverne una quota attraverso il versamento del valore corrispondente. PAC, piano di accumulo del capitale, e PIC, piano di investimento del capitale, sono acronimi che identificano due modalità con le quali è possibile aderire ad un fondo comune di investimento. L'adesione avviene con il PIC tramite l'effettuazione di un versamento in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione delle quote del fondo, mentre con il PAC tramite l'acquisto di quote attraverso versamenti periodici. Con il PAC il cliente acquisisce il diritto, e non il dovere, ad effettuare un certo numero di versamenti fino a raggiungere la somma stabilita nel contratto iniziale. Di norma i versamenti partono da un minimo di 60. Una volta avviato, il piano di accumulo può essere alimentato con versamenti effettuati mensilmente o con altra cadenza periodica. Le domande del risparmio. Sappiate che vi riconvoco qua presto prestissimo per parlare non degli immobili residenziali, ma per quelli di pregio di pregissimo, perché qua St. Moritz stamattina vedo che ha suscitato un vespaio di commenti da parte dei nostri ascoltatori che ho evitato di leggere perché ci interessavano poco, ma se vi interessa così tanto questo mercato, magari è proprio vero che c'è un bel po' di liquidità in giro e un bel po' di denaro pronto ad essere investito, eh? Allora, grazie a Paola Dezza. Paola, a presto. Grazie a voi. Grazie anche a Luca Dondi per essere stato con noi. Alla prossima. Dondi, quando presentate il prossimo rapporto? Innanzitutto grazie mille a voi, il prossimo rapporto sarà a luglio sulle città grandi. Perfetto. Prima avremo un rapporto sulla finanza immobiliare a cui teniamo. Benissimo, molto. Benissimo, allora ci risentiamo anche per questi due appuntamenti. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Domani.